hate those remaining vastes from the planet of fear. Conflict between nations will always arise. Best to resolve to a peaceful method than every day. Going to war, don't so, war up so, war don't so. Every day is war, political war. War don't so, war over so, war in your soul. Every day is war, religious war. I see world leaders gathering troops for war. Yo yo, buon pomeriggio a tutti. Questo è Salento Connection. Alla console DJ Warbo, direttamente dal Salento. Questa era War di Screwdriver. Preparandomi questa selezione ho notato che questa traccia, se accelerata anche di poco, può davvero cambiare. E ora vi faccio vedere una piccola differenza passando solamente a 4 bpm in su, ovvero da 82 a 86 bpm. Questo è sempre War degli Screwdriver. Listen. Arm your nuclear weapon, eradicate those remaining vastes from the planet of fear. Conflict between nations will always arise. Best to resolve to a peaceful method than every day. Going to war, don't so, war up so, war don't so. Every day is war, political war. Stockpiling ammunitions for battle. And then they hear the people cry, but still ignore the human rights. Fighting for land and isle, don't care whether you live or die. War up so, war down so, war over so. Everywhere is war, political war. Ok, ok, ora passiamo velocemente ad un'altra big tune. This is Selassie Live, same artist, listen. DJ Warbo. Selassie Live. Selassie Live. Majesty now, who is majesty now? Is majesty now, who is majesty now? Hey, after me talk to the sinners and blasphemers about the wrong interpretation of the scripture. Majesty now, who is majesty now? E questa era Selassie Live degli Screwdriver. Ma come ogni episodio partiamo di Foundation. E quale è l'artista che ci viene in mente se non proprio lui? This is Bob Marley, Mr. Brown. Volta, questo è Dr. Ring Ding and the Senior All Stars con una big tune, Foundation tune. This is madness. Madness, madness, they call it madness. Madness. Madness, they call it madness. It's plain to see. This is what they mean to me. Madness, madness, they call it madness. Madness. Madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness. Madness, they call it madness. Yo yo, e Dr. Ring Ding, Pandy Rhythm. Ora un'altra volta presentiamo il re della reggae music. Questo è Bob Marley. Listen. Rebel. So real. Yo. I'm a capture of. So real. Un'altra volta quest'ora Bob Marley, andiamo a presentare dopo di lui un altro big artist. This is Frankie Paul with Israel. Children of Israel, riconosci il ritmo? I know why. Children of Israel, remember the things you've done wrong. Yeah. Children of Israel, remember the evils that came upon you. Oh yeah, yeah. And if you look into the book of Psalms, you will see what I mean. Take a peep into the book of Revelation, you will see what I mean. We got to find what home, find what home, find what home to Mount Zion. You know this, Dudes and Metals, Foundation Artist. Da Funky Kingston di Toots and Metals passiamo ad un'altra big tune of the same artist. That's my number. This is the dub version. Un pizza le ricche. Yeah. Oh, no. Oh, no. supper tonight. This is Willie Williams. With Armageddon Time. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter. In this iteration, it's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iteration. It's Armageddon. Passiamo da Willie Williams a Junior Biles with Fade Away. Music's of only vanity and no love for humanity shall fade away, fade away. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run. in a gun or see your son. So I grab a bunch of froze and I started to run. Here I come. Whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come. Tie me down, cause you are old. E da Barrington Levy con Here I Come passiamo ad un'altra traccia con lo stesso nome, ma l'artista è differente. Questo è Dennis Brown, e senti cosa ti dice. Love and hate can never be friends. Oh no. Un accendino. Oh no. Fatevi sentire per Pirate Radio. Here I come with love and not hatred. Show me goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Envy no one, no wish to be with no evil man. For there'll come the day when you'll be reaped by the feathers and leave up huge children. Oh yeah, leave up pastor children. Cup runneth over, yeah. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Oggi è puntata di Anthem, passiamo da Dennis Brown ad un altro Anthem. This is Max Romeo and the Upsetta. This is I Chase the Devil. Listen. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Out of earth, I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Te lo ripeto un'altra volta. Salento Connection. DJ War by Controlli. E ti propone un'altra big tune. This is Beerus Hammond. Ok, yeah, Beerus Hammond. This is Rockaway. Te lo ripeto un'altra volta. Se sei qui per sentire un po' di vibe, un accendino in aria per Beerus Hammond. There's hardly any safe place left to go. come again. We do it just the same. Hey, hey, John Old Jazz and Ellis, Errol Wilson, Dennis Brown. Hey, hey, Big U, Josie Wells, that a Roy would wake the town. Yeah, and you had to hold your woman real close when Smokey starts to sing. Temptations, Marvin Gaye, Spinners All the Way, Aretha Franklin, Patti LaBelle used to make me drift away. Play Stevie, play Samuel, Denny, Day. Hey, we dance all night to the songs they play. We can come again, do it just the same. Davvero Summon, passiamo ad un altro big artist che abbiamo già presentato prima. Questo è sempre Max Romeo con un'altra big tune. This is War in a Babylon. Maxi Joe, se la conosci? Canta insieme a me. War in a Babylon. Pull up. DJ Warfo. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. What you say? You see below there. Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. You see below there. What you say? You see below there. Babylon, tribal war in a Babylon. Is it below there? Who are you saying? Is it below there? Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it below there? Where you say? Is it below there? E passiamo da War in a Babylon ad un'altra traccia. This is Move Out a Babylon by Johnny Clark. Listen to that. Move out a Babylon, Rastaman, and leave all the wicked men. Proviene dal Old Stories Ska Rock Steady Reggae Music Album. One of the 100 big tune of the reggae history. Johnny Clark on the rhythm. Only righteous man shall. Babylon, Rastaman, and leave all the wicked men. Move out of Babylon, Rastaman, and leave all the wicked men. The wicked shall not prosper, only righteous men shall stand in the hall. Perché dobbiamo ringraziare proprio loro, che da anni, anzi che per anni si sono sbattuti in Giamaica per far nascere questa cultura che è appunto la reggae music. Un altro big artist è Prince Buster. This is Hardman Fidead. This is Ska, a.k.a. Rocksteady. Pick him up, you lick him, dung him, bongs right back. What a Hardman Fidead. You pick him up, you lick him, dung him, bongs right back. What a Hardman Fidead. them say the cat got a 9 life, but this man got 99 life. Cause them pick him up, them lick him down in bongs right back. What a odd man for dead. Them wild, one pot of chocolate tea, and all the fried fish they caught in the sea. They also got 6 quarts of rum, saying that they waiting for the 9 night to come. The last time I heard them say that this man was dead. Them biting black eyes and them lay it all upon his head. Now the procession leads to the cemetery. The man allow, don't you bury me. You pick him up, you lick him down in bongs right back. What a hard man for dead. Hard man for dead. Ok, entriamo nella nostra seconda mezz'ora del programma e partiamo con un po' di Italian tune. This is Mama Maria's sulla Maria Rhythm, Every Time. This one is dedicated for all the ganja smoker all over the world that lead to depression. Si comincia con un po' di buoca. Come to be free to smoke every time and everywhere. Come on. Every moment is right. Every minute. Solid plant is the cure for the heart and soul. Babylon, you know it, you know it. You gonna just call it color. Yow. Mama Maria, so. Pumola, Mama Maria. Mama Maria, so. Candela, Mama Maria. Mama Maria, so. Volek you, Mama Maria. Menzala, via. Blatem, bami, the papa, polizia. Ya, pe, chanari, so. Yon, yedi, shinam, da, kasi. Papa, kwanda, mas, por, sanari, yesha, kapi, the criminal. El, men, el, abre, so, ki, no, pa, yi, so, ma, vida, sen, ba, tseka, me. Meno, para, dos, pri, meno, sheriffa. Cacchio, dito, moralista, e, profume, stifa. Calam, giu, tulo, polita, cio, facita, tita, schifa. Dananze, denuncis, la, ma, vida, dita, la, favorish. Acita, cita, sgruce, tas, balish. Yalla, legalita, dena, na, tago, mi, ne, pe, chanan. Giu, guadagni, ce, la, pute, ci, pure, cate, ma, chanala, friga, me, tua, pa, suplici. Ci, la, puta, mi, candei, io, ne, pe, cazzo, sulo, scoccia, trucia, me, l'invento, ne, sa, cia, blundo, marco. Babylon, you're gonna just legalize it. Please don't probate it and don't criticize it with any language. This is my message. Listen, my mama, we are so fancy, my mama, we are redeemed. Wow. Every moment is right. Every minute is right. This solid plan is the cure for the heart and soul. You know it, you know it, you know. You're gonna just legalize it. When I wake up in the morning, I'm not gonna get high. Chi vabbè fuori le gange. E da Mamma Maria, perché c'ho il grider che piange. Passiamo a Raina con Villada. Dai, tu sulla ganja senza ritegno come buon male, ma detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja, già io original fan. Perché ganja buona noi ci piace fumare. La brucio la ganja senza ritegno come buon male, ma detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja, già io original fan. Perché il ganjigano a noi ci piace fumarla. Fumo l'analogica, quella digitale, quella con le lampade, quella fatta sotto al sole. Dal bianco al violetto te prego, dammi un colore. Basta che ci vedo la resina sul fiore. Tu dammi le cime te prego. Non me dà le scorie. Non sono un pischiello che va a scuola dalle suore. Non puoi classificarmi fumatore occasionale. Nel gioco della guida la missione è bornare. Ho fatto il primo cilum quando ero l'asilo. In classe si era tanti per cui prendevo un chilo. Facevo i bonghetti con le penne filo. Pure la maestra una volta spaccata un giro. E poi c'ho la ganja senza indegno come pomarle mi ha detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja già io original falla. Perché mo in Salento stiamo sempre a fumarla. Brucio la ganja senza ritegno come può male, ma detto che fa. E da Raina, è una della Italian artist. This is Alba Rossi. Boom. Muola mi di piace non con ganja in di ghetto. In di ghetto, in di ghetto. Con mi ganja pa' i bango with the flow. like a Rastafari sing so. Me hold a meditation and burn ganja inna the ghetto, inna the ghetto, inna the ghetto. Burn me ganja pipe and go. Go make it pop. Flow. Rastafari say so. Hold a meditation and just chant and pray. I fi take it slow, are the only way. Lift up your soul, it's a brand new day. Love day after we and it comes to stay. Keep a safety distance from the evil root. Red, gold and green, no match, no blue suit. Keep shining and smiling, all with one boat. Mud sinking joy, never dispute. Big up the bubble youth, them dress up in a them baba suit. From the bush bungalow in a them Timberland boat. And about the ganja pipe and I preach just the truth. And no Babylon boy can keep eye and eye mute. Hold a meditation and burn ganja in a the ghetto, in a the ghetto. E da Albo ai pionieri del reggae, il talento di ogni dove. Ogni giorno, ogni settimana, la tira la mattina. Pull up. Ossi nel mondo di this suit sound system. Ogni giorno de chiui. Ogni giorno de chiui. Ogni giorno, ogni settimana, ci tira la mattina. Ogni minuto, ogni ora. Se ne vuoi, se ne vuoi. Ogni musica già l'aria. Ogni giorno, ogni settimana, ci tira la mattina. Ogni minuto, ogni ora. Se ne vuoi, se ne vuoi. Ogni musica già l'aria. Seguo dallo ritmo, seguo dallo tempo, seguo dalla musica in ogni momento. Tanto l'amore, tanto valore, con la migliore di intro. Sto fai cos'è, però già ti agnaccio. E c'è quello versato, il stile dei anni ha cresciuto. L'amore non ci ha cangiato ancora, oggi è come una fiata. La musica mi è giusta, sempre ogni giornata. Corona sonora, devi pagare la mia vita. Che indica la via, mi moscia la giusta strada. Ogni giorno che passa, cacciurani dentro. Qualche cosa le spalle, ogni tanto la siamo. Ma l'emozione e la gioia che questa storia vivimo. È un amore in giallo, cuore in ed e non ne portiamo. E allora, intime su sta taccia, catturami sto momento con un rosso di sto sulla faccia. Non fare mai lo spiccia, riesco come una roccia. Con il pensiero che essere uca, ogni momento devi la sua bocca. Ogni giorno, ogni settimana, si chiude una settimana. E la sera la mattina, si chiude una mattina. Ogni minuto, ogni ora, si ne vuoi, si ne vuoi. Ogni musica dall'aria, non ne contentiamo mai. Non ne contentiamo mai. Ne unimo sempre di più. Ogni giorno, di più, di più, di più, di più, di più. Ok, e insieme ai Suit Sound System è cresciuta tantissima di quella gente che col tempo è andata anche a staccarsi come Treble, Papa Gianni, GGD, DJ War, che a sua volta dopo quello che è stato il movimento Suit Sound System ha creato un suo studio o un proprio, appunto, un proprio progetto. Tra questi c'era un certo Simone chiamato come nome d'arte Bellina, e questa è la sua tune per uno dei Salento Showcase, anzi il primo Salento Showcase nel 1994. Senti questa. Ali buai, come a tutti quanti moi qua, sì, come un buonzo nella storia, che ci viste la storia di un po' le cammina chiui, tutti i massicci come secondo noi qua, sì, ma tempo non è una spicciano chiui, ali buai. Cammina, cammina, cammina, camonce l'ubellina. Ulla capo l'ucore l'u colpo mai chiude prima. Cammina, cammina, cammina, sta senti l'ubellina. Sì, lo tempo passa, io l'ho seguita sulla rima. E rima su rima te faccio una via. Te date parole, pensieri, te corre. Le guido che dice, guido che sento. Mi scondo, non mi vento. Sono guagnone contento, che stampo una gialusa. Le te dico, ci me sta senti, ci me sta senti. Cammina, ci me sta senti, ci me sta senti. Seguitame, che ci me sta senti. Forse mo in stancinico pensi a qui tu cadici pure se non te serva niente. A qui tu caiti e poi dopo un ci criti. Senza che te domandi se su veri o falsi miti. Ma oce come oce dei falsi eroi cintete tanti. Politici, scienziati, puro muti, militanti. Tutti pronti e bravi a voler salvare il mondo. Ma bada bene amico perché è tutto un giro tondo. Sine, un giro tondo fatto di soldi e corruzione. E questo tutto un business dettato dall'ambizione. Allora sarciccione cammina in pizza le ricche rada. Camo te la sta dice uno dei miei zula strada. Allora mena, cammina, pane come l'ubellina. Pulla capo l'ucore lo colpo mo chiude prima. Allora mena, cammina, pane come l'ubellina. Tocca giri le chiavi col tuo milo quadro e metti la prima. Ma dieci dave ma tu fai e non vuoi cammini chiui. Dimmi buonuti e te la fatti li conti tuoi. Si sinceramente dimmi, si contento di te stesso. te soddisfa la vita, il lavoro pure il sesso. Dimmi se te cucci o se stappa tu capace di stucca così vivi a quanto pare te piace. Futuro, io su sicuro che qualche cosa entra de luce. Tocca a te su chi lo maro pure se te piace a luduce. Ora mena, cammina, pane come a lubellina. Tocca ci legai, con tu mi lo guagio e metti da prima. Allora mena, cammina, senti a mia lubellina. La capo lo fare lo colpo e chiude prima. Ma dieci da fermato guai e non ha menato cui. Dimmi c'è una stalla e tutti lì sogni. E dopo il Salento Showcase del 1994 ce ne sono stati diversi, uno nel 2000 e uno nel 2007, che hanno segnato la nascita di molti di quegli artisti. Tra questo c'è stato soprattutto una traccia che è Stucore, Petti e Scalpita del Salento Showcase 2000, del 2000. Betta mia, il cuore mio che riesce a fare quello tuo. Hey, hey. E senti te che mi dai coraggio e mi fai sanare il cuore ogni giorno. Hey, hey. Oh, zine, moi. Sapisce con mia, sicuro per te. Sapisce con mia, sicuro per te. Sacrisce con mia, sicuro per te. Sacrisce con mia, sacrisce con mia. Sacrisce con mia, sicuro per te. Tanto da dare sia, sa fai cute dai, non è non si mai. Fice di euro. La Marina. Hai le filosofie, dentro le braccia due. Sacrisce con mia, sicuro per te. Tanto da dare sia, sa fai cute dai, non è non si mai. Fice di euro che quest'hai. Hai le filosofie, dentro le braccia due. Ti senti lo pensieri che vedo, che io tengo un capo. Niente, c'è di madre, così ranna giù di nuto. Ti m'ha portato un auro muto, che penso tutto quanto quando vivo e senti muto. Molto che io vedo ogni fiata che te esce. Perché c'è sempre l'astrofaglio, fuori da campo che c'è scritta mai. Solo sempre te, ogni giorno in giusto di me. Le qua che io non ti n'hai, te voglio bene, sai, lo sai. Sacrisce con me, su cuore per te. Che non già da regia, sa fai con te dai. Non è non ci n'hai, picce di euro che quest'hai. Dentro le braccia tue. Mi piaci die, mi piaci die, mi piaci die, solamente die, solamente die. Mi piaci die, mi piaci die. Senti Papaleo. Te die solamente die, solamente die, quello che te faci capire. Solamente die, non c'è nulla, non lo sai fare. C'è un essenziale come gioisce il cuore. Che mi dai carica, con te parlo d'amore. Solo cucine io posso pensare. Che non è stulle se potete. E dalla Marina e Papaleo passiamo ad un genio della musica palestina. Questo è Don Tonino. Sta bene pronto compo. Ora vorrei fare una fottutissima presentazione a questo genio della musica reggae. E non solo, perché abbiamo visto anche dal primo episodio che produceva tantissimi tantissimi artisti. Infatti abbiamo sentito una produzione di Mad G e Yeah Yeah Just Bang, che era appunto Me Licenzio. E questa era stata proprio registrata nello studio di Don Tonino. Ma Don Tonino è nato grazie ad una persona che è DJ War, che anche in questa Big Tune lo cita. Original Ragamuffin in a dancehall style, cinemoi. Acqua i sta bene pronto compunamo. Io Ragamuffin in dancehall style. Alza la mano, fanno non c'è, non se ti piace, lo DJ compunamo. Lo faccio ogni giorno da qui. Sta bene pronto compunamo. Talento showcase. Mo' fibe tutti qui. Showcase. Non c'ho la danza che non spicciano mai. Lo DJ le porta per bui. Vengiamo da Tonino, questo nome mi prese tu. E non te li zani, è giorno paese dello talento. Ragamuffin è della musica che mi piace come sei tu. Mi piace l'accento, tu sta stai in ogni momento. A casa mi faccio pazzi, scrivo pezzi e poi li canto. Come diverto io alla gente allo stesso tempo. Siamo moci, ti piace la musica che io sto accanto. Vieni zuppa, balla come un cazzo e divertimento. E mi prese tu, ciao a tutta quanta la gente. Ci zuppa, ci balla, sape che l'ure che sta sente. Dico ciao, ciao alla gente che mi sta sente. Ragamuffin ogni giorno non come la gente. Per ogni guagnone, guagnone, chiunque sia. La musica mo sta bene per tutti quanti lì. Con scarfa la mando con una scarfa dalla mia. Delusa lenta duria ria con forte energia. Sta bene pronto compunamo. Io Ragamuffin nel suo style. Alza la mano fanno non c'è, non se ti piace. Lo DJ compunamo. Lo faccio ogni giorno dai qui. Sta bene pronto compunamo. Io Ragamuffin per tutti qui. Libera i liri che non c'ho la danza che non spicciano mai. Lo DJ le porta per bui. Ha stato lì già work al primo disco. Ma dato era che a lui e per a te Ludorico. Incia de mie subito a duma du fuego. Tanto che allora che mi subito mi ha piaciuto. Ma giù mi sa la base giù cignato giù cantato. Non lo sapeva fare ma mano ma non ha giù parato. Perché era fuori de capo in ciallo core mi ha pigliato. Così che mi ha giurato pronto o duma fuego. Ok, prima che arrivi il momento delle 4:20 noi propsiamo un'altra traccia. Questo è sempre il Salento Showcase, però del 2007. Questi sono Bob Joman e Chico Siletta. Siamo noi a quai, do DJ, Chico Siletta e Bob Joman. Bruciano sempre di chiunque c'hanno dentro. Camerati con noi. Ehi, pica ma boni, pica ma boni. Punano sempre di stinciarla dentro li guagnoni. Pica ma boni, pica ma boni. Vedi fa convinti cade capusi musani. Pica ma boni, pica ma boni. Cantano massicci do DJ Salentini. Pica ma boni, pica ma boni. Bob Joman e Chico Siletta sono tutti i nomi. Quando sento la version non sa più c'è mezzica. Mi sento in giallo cuore, buona cosa che ti spatta. Buona vibrazione che a foresta cerca pezza. Tutto il lume sta già si diffonde c'è la massa. Tu vogliono se stimola e comincia a gustare godula. Pigliato e la bagnola che su brasa se frigula. Frigula se frigula. Quando i da se godula, godula se godula. E su brasa se frigula, tutto si elabora. Quando vide splendida, magica, magnifica. È una cosa fantastica. Questo è il segno che la musica ma face effetto, senti l'effetto capace. Il sugato e piace, continuo bucam. Più di e fumoni, prime veloci, precoci, che in già me sento. A capo ancora e bruciano, giuste tutte le caccio allo momento. Per noi a quai, pica ma boni, pica ma boni. Punano sempre gli estinti alla denso di guagnoni. Pica ma boni, pica ma boni. Vedi fa convinti cade capusi musani. Pica ma boni, pica ma boni. Ma si uccido DJ Salentini. Pica ma boni, pica ma boni. Bob Joman e Chico Siletta son tu li nomi. Voglio che canto, voglio un ponno. Porto la parola mia in cialunno. Voglio un ponno, voglio che canto. Voglio che difendo la cultura dello Salento. Ok, ok. Siamo arrivati al 4:20. Questo è il nostro orario. E ora propsiamo un'altra big tune. This is Smoke Marijuana by Sizzla. All day. Woo. Let music keep on playing. Wow. Sometimes the things you need in life may be difficult. Not all the time it's gonna be easy. That's how it go. Smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. I'm feeling so very good about myself. Stay away. The wicked and fly. And when I got problem at home domestically, and my girl she just wanna go with me. I smoke the marijuana and get out. Stay above the wicked and fly. Love is the order of the day, you better find it. I'm a big man, I put my problems behind me. I smoke the marijuana and get out. Stay above the wicked and fly. E questo era Sizzla. Nothing nor no one that could get to me. Not even the damn system. So listen properly. Right now I'm Mary and Cherie and living happily. If those Babylonians mess with us today, the music I play. One of my favorite artists. He's a real bad man, but at the same time one of the best lyrics. Solid as a rock. By Sizzla. Maninario. They can't keep a good man down. Always keep a smile when they want me to frown. Keep the vibes and I stood my ground. They will never ever take my crown. Oh, Jah bless, I say no man curse. Things getting better when they thought it would be worse. Here comes the officers asking for a search. They found no weapon, just only a draw first. But I'm so solid as a rock, they just can't stop me now. Even when they set their traps, they just can't stop me now. People will say this and that, they just can't stop me now. Another time, Sizzla, this is Rise to the Occasion. Occasion, look at yourself and say you're strong. No one can stop you. Oh, yeah. rise to the occasion. Go ahead, you know you're strong. No one can stop you. It's for you to make the best in your life. Now that you've got the chance. Stiamo per entrare nell'ultima parte della nostra live. E ora iniziamo con un po' di bombe. Questa è la Scream Rhythm. This is Sisla Kalonji. Yeah. Girl, I'm gonna give it to you, right? Yeah, I know you love me. I know you're sexy, you're tight. Yeah. There she go, showing it off, cause that's what she know. And that she like, keeping it real, and not just the vibes, and not just the vibes. There she go, showing it off, cause that's what she know. And that she like, keeping it real, and not just the vibes. Girlfriend, I put it on you. Girl, you know I'm your man, I put it on you. Girl, you know what I want, I put it on you. Girl, you know I'm your man, I put it on you. Girl, you know what I want. Look how you're pretty, woman. Look how you're slim. Look how you're sexy, woman. Look how you're slim. Have you in my place, I'm like you up every day. Nobody can touch you, I no play me a blame. Do you think no matter where them want to say? Clean and you're pure, I love you just that way. No faster them matter, just let them alone. No character, no charisma, you want to let them get them. You look good in your clothes, I miss them. Declare it every day, I put it on you. Girl, you know I'm your man, I put it on you. Girl, you know what I want, I put it on you. Girl, you know I'm your man, I put it on you. Girl, you know what I want, damn. There she go, showing it off, and that's what she know. And that's a lie, good for the thrill, and not just a vibe, just a natural vibes. There she go, showing it off, cause of that she know. And that's a lie, keep it going, and just a natural vibe. She can't play some if we don't need some, my gal. Get out the hearing and the ride, the home, my gal. You ever need, well, I'm not a bona gal. My career's where you're in, I don't a gal. Come! Not the video, make me see your ear style. And a little bit of money give your ear style. No fear to pull it up because I feel your ear style. For your ear style, I know that it clear your ear style. And no bull of money pay for your ear style. Watcha, come here girl and make me see your ear style. Watch you about you and them a pre your ear style. For your ear style, I know that it clear your ear style. Ear a chop close match with it. Your cute face now no patch with it. Enough money man you catch with it. Girl, what's you have the glue with the latch with it. By yourself, no go bed with it. Your dignity, you are dead with it. Me bank book, go ahead with it. But just remember when no waste time said. Come! It's in a division, make me see your ear style. And a little bit of money give your ear style. No fear to pull it up because I feel your ear style. For your ear style, I know that it clear your ear style. And no bull of money pay for your ear style. Watcha, come here girl and make me see your ear style. Watch you what you want, them a pre your ear style. For your ear style, I know that it. Telling me wanna spear, you wanna queer. You got the flair, big money spent for do your hair. People look when you appear, anywhere. You a gal with dear, them a wonder if you a millionaire. But watch out. You no care, everybody fear you. Them who don't mind, see your monkey up to cheer you. Now yeah, your man make a proper peer. Feel teddy bear, take the whole of them one be near you. But watch a day, if you not the picture, make me see your ear style. And a little bit of money give your ear style. The people pull it up because I feel your ear style. Feel your ear style, I know that it your ear style. And a bull of money pay for your ear style. Watch out, come here girl and make me see your ear style. What you want, what you want, them a bring your ear style. Feel your ear style, I know that it your ear style. Take on the place and make we don't need so my gal. They told you hearing on the ride home my gal. You ever need to let that about a gal. My parents where you in a don't a gal. Here a chop close match with it. Your cute face now no patch with it. Enough money man you catch with it. Girl what's you want be glue with the latch with it. By yourself no go bed with it. Your dignity you are dead with it. Me bank book go ahead with it. But just remember we no waste time playing. I saw them this as a way empty magazine. Give me a microphone and make me intervene. This a war 21 economy, no other thing. You just pass me the tall MG. Cut them off, cut them, say boy like we. But no player yet, a fussy turn history. We wicked and wild and full up asylum. Because we big up every shot and stack your money till you're wealthy. Big up all of the woman, them we know them body healthy. Burn up, fancy your eyes, but you a go belty. Firehouse, put a fire upon them so we melt. You just put a dozen blank for me. What 21 a pass through your party. Big up every player, big up every lady. Sometimes we keep it simple than a 1, 2, 3. You know why? Hey, every day we keep We live in thug life. So what you play your head, that's what I do. Every day we keep it gangsta. We live in thug life. So what you play your head, that's what I do. Every day we keep it gangsta. We live in thug life. So what you play your head, that's what I do. Every day we keep it gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. Who tell me if them the ridiculous? Them would wear them a true, that name ridiculous. I talk about crew, fit them crew with double and I'll triple us. Ridiculous. Them realize our flow, them so meticulous. A real shot of them stick with us. Check for yourself, how quick we come. Ali War 21 Ali T.O.K. E se non l'hai ancora capito, questa è la Scream Rhythm from Rhythm Driving. This is Bend Down Low from T.O.K. E sai come fa. See me body and I tell me she have something to give me. If a freaky freaky thing does tell them say that on me. Maybe rev them and park them just like a jalopy. Real team this and a fake like Millie Vanilli. Girl a giggle, girl a laugh through me walk them silly. Cicelina, Carolina, Melanie and Stephanie. Warm cool like Penelope. We not go bend down low. And also gangsta flow. But if a girl want go, we not go tell them no. We not go bend down low. And also gangsta flow. But if a girl want go, we not go tell them no. So yo, girl, if you want the thing, well then me woulda give it to you. And if you want the pen, girl, me woulda give it to you. You want me run the city, red, me woulda give it to you. But if you want me, girl, then me not give it to you. And if you want me to hear the shape, me would I give it to you. Oh, you know me can't see me, would I give it to you. But if you want me, use me, beat me, now I give it to you. My type, my type, smooth and I'm tight. I'm a Christopher for the girls. No worry, call them lucky, them a worry about you. You no worry about worry, can worry, no worry you. Them a worry about them and them a not worry about you. Tell a girl fill out your name and stop worry about you. Them a worry about clothes and true diesel fit you. Dulce and Gabby Louis Vuitton fit you. Everywhere you go, the video light a follow back at you. So no girl fill out the hype cause she no act like a you. Tell a girl fit talk up, no bother chat back at you. Girl man a left her and a come chat back at you. X5 and Cadillac no stop, stop back at you. When the man them see the G-string print back at you. I hate a madam. This is Mad Cobra with Christopher. But on the same rhythm, there are only one of these artists. This is Christopher on the Scream rhythm. This is Bad Mind. Guns, we're glockin' it. Tims, we're steppin' it. Ice, we're rockin' it. So ladies, flockin' it. Don't wanna be the first runner up in this. It's not my fault if you can't handle it. Some G-strings poppin' it. Iceberg, stop rockin' it. Cross colors and can I? Yes, we've forgotten it. Some bad mind droppin' it because you're floppin' it. You're trying to cut my speed. Yes, we are moving the streets because we don't matter people. So them phones scratch with vehicle through them. Bad mind, right? Script life in diesel. One come pick on me diesel. I was flipping one season through them. Bad mind, and once we link on me, yeah. And the police we want say them a friend, them a fraud, we call it bad mind. If they beat up we ends, we call them one me with friends, we call them bad mind, bad mind. So one of my party fans, yeah, same style, and start exactly. it and crush them hard. Bad mind attack, who run away apart. Can't stop me from spa, make it right, take a walk. Boom tune a vice with big bad friends. Can't follow the pace, them left back in the days. Some evil doers have to go change them ways. Do you hear what I say? Cause we are moving the streets because we don't matter people. So them come trust with vehicle to them. Bad mind rights, keep life in diesel. One come pick up with diesel. I will slip them one season to them. Bad mind. But we link and we yard and the police reward. Say them a friend, them a fraud, we call it. Bad mind. Them a beat up with ends because them can't be with friends, we call them. Bad mind. E ancora non abbiamo parlato di un grandissimo artista. Quello che in tutte le puntate è stato sempre e comunque messo in qualsiasi modo. Questo è Vybz Kartel, Pondi Message Rhythm. This is Poor People Land. I can't believe it. This is one of my favorite Vybz Kartel tunes. I'm a refugee in my own country. But a long, long time. Maybe the also can't go away. Them really them poor people for tune. Them really them poor people for tune. Yeah. Oh, I miss a body land. Where you get that system you're from? Boy, those are dumb poor people land. John, no seminar vote again, no sir. For the MP don't give a damn. But where you get that system you're from? Both semi live on Smatterland. Joe, me don't reach like Matterland, no sir. Me a bad Jamaican. Me not have nowhere to go. Me born and me grow, you're so in a the ghetto. Bigger heads, make you a blind now. Me can't buy your house up a cherry garden. Ashes to ashes and dust to dust. The tribulation in a the ghetto is a must. Never qualify for a housing trust. Cause me lose all of my money in a cash plus. But me know say me a born Jamaican. Me day of from slavery as an African. Somebody tell me where my talent come from. We own so much land in our island. Tell me a chin, go back to Japan. Call Jamaica, feed the black man. From Moran Pine to Negril Pine. From St. Thomas to Westmoreland. Oh, Mr. Babylon, where you get the system you're from? Boy, those are dumb poor people land. John, no seminar vote again, no sir. The MP don't give a damn. Where you get the system you're from? Both semi live on Scotland. Another time, it's Kartel. This is Unanimi Abbe's friend. If a boy don't like me, me no care. Me no guy fi go cry nor shed a tear. Bleach out a the girl dem a penny me. Cause a me say, ratty a me enemy. Unani a my best friend. No matter what me nah left them. Woman everywhere me go so me no fret when. One gun, one band, so me get them. And if me run out a girl, me go check them. Back it up, girl, bring it on the left then. Deal with the big bike like a yeng yeng. Bossy new style, let me see you set trend. Bully this so you no see the thing I extend. Taka tick, bubble fi me quick. Cause a girl, what a body tick. Do no shift, me a bonus spliff. Mini skirt, mini a fillip. Taka tick, bubble fi me quick. Cause a girl, what a body tick. To no shift, me a bonus spliff. Mini skirt. Apart from life, we believe that greatest gift that a inna the G string a the E gift rap. Me a chip that rougher than a big block. Was it smooth? Me a hammer like a big rock. Even if it hairy like a pig back. Me a iwi like a disc jack. Keen a night's gal, them have the thing lock. Buck na gal them a none a riff rap. Taka tick, bubble fi me quick. Cause a gal, what a body thing. To no shift, me a bonus spliff. E ora andiamo a presentare una rhythm uscita pochi anni fa. This is Spacecraft Rhythm by Jay Kreis. In questa ne possiamo trovare diversi artisti like Lisa Hyper, Savage Savo, Vybz Kartel and Sika Rhymes and other artists. This is Sika Rhymes for Jay Kreis. Look easy. Me do it so easy. Billboard me go buy some Pongo CD. Look how me make it look easy. And then my work hard for got TV. Hang on me clock for my jeans. Call me the young boss, not the biz. Yo, Jay Crazy. How the VP? Bust a blank if you know say you straight. If I not one down on me a lucky place. Me party me nothing. Call me seat say you time them a waste. TK big up every youth in a rima. If I not one down on me a lucky place. Me party me nothing. Call me seat say you time them a waste. Yo, no time to waste, no time to chase. Them not the gate, I mean, I keep them like a heavyweight. Them never give me this, me work for this, me keep me faith. I mean, no need them bad energy, they keep the hate. I mean, I give away what them feel like. One time to fuck up, so me gonna space. No woulda never spend a dollar for me tune to play. Wish flag up, who I can't tell me about no deuce to play. Bust a blank, if you know, say you straight. If I not wonder, now me a lucky place. They party me. Hey, Zika Rhymes. Passiamo al più scontato. This is bad. Cartel with New Moon. Them must say you're not a lawyer. Them loyal. Find your case like a lawyer. My wire, I'm a nala. Start up the piano. You and him left. Now we might try style ya. Fuck me all of them. Fuck them all. Man a real killer. Him can't be so none at all. Drive off like you as hazard. New Moon and Saturn. Apart from me kids and money. You're all that matters. Solid gold wrist, white Air Forces. So fucking high up in orbit. Meet a new girl, same old story. Party last night, wake up, good morning. Boom, keep the key just in case your thief money. But you never touch a thing. Me like ya, and the pussy them a try. Fi fight ya, that hungry make me stand strong up beside ya. Them a say you're not a lawyer. Me lawyer, find your case like a lawyer. Me wire, I'm a nala. Start up the car now, you and him left. Now we might try style ya. Fuck me one of them, fuck him on. Man a real killer. E ora da Vibes Cartel passiamo uno non presente all'interno della Riddim. Calamita Mixtier riprodotta dopo, naturalmente. Questo è, Flavio Ghetto Eden con Cullafanno from Calamita Mixtape Set. Listen. Calamita Mixtier. Canto in dialetto io, culo dialetto mio. Canto in dialetto io, culo dialetto mio. Canto in dialetto io, culo dialetto mio. Canto in dialetto io. Ghetto Eden. Ci vuoi canti l'acqua dell'umare. Nutrimento felice dell'ucore. Vesti giance, Luca su sempre care. Luca tu dell'usule, Luca adore. Ci vuoi canti la musica sincera. L'andore delle rose già sbocciate. L'alberi dei fiori a primavera. I riti delle cecale consumate. Ci vuoi canti l'andore dell'upare. La luna amica degli innamurati. Pisce rocchi, le fritte già montane. Del stu salento, durme, sciuto e marudo. Capuschi, ugulu, dialetto, nesciu. Ricco de senu, de nu senu. Fazzo qui giocali non ne mando di tu. Con canto dei giuca in un paradiso. Ci vuoi canti lui entro d'estate. L'uccello limpido senza una nuvola. I colori delle campagne. Vestu salento fuori de capo. Tocca con scrivo con lui dialetto nesciu. Ricco de senu de nu senu raro. Fazzo qui giocali non ne mando di tu. Con canto dei giuca la sta fazzo davvero. Canto in dialetto io. Con lui dialetto mio. Canto in dialetto io. Con lui dialetto mio. Canto in dialetto io. Canto in dialetto, yeah. Ci vuoi canti l'acqua dell'umare. Nutrimento felice dell'ucore. Vesti giance, Luca su sempre care. Luca tu dell'usule, Luca adore. Ci vuoi canti la musica sincera. L'andore delle rose già sbocciate. L'alberi dei fiori a primavera. Io ti montana, sulle come energia. Adim. Sapori e colori, parlo della terra mia. Nata di domari, ulivi secolari. Le piogge fanno muri con le vigne sulla via. Nero de malvasia, pelli compari. Con queste masseria, paesaggi incantati. La taranta, le sagre, melodie varie. Cani compagnano. Ma all'interno di questo mixtape c'è stata una traccia che davvero mi ha colpito, ma non per il flow o per la metrica, ma per quello che dice, per il testo e anche per la melodia che davvero mi fa impazzire. Questo è Salvani, sempre dal Calamita Mixtape Set. Listen. Dammi un motivo come me posso fidare, ma no, non è non me fido perché fanno male, oh. Al casta mi ciupi tu che combinano. Case non ne grigio e del minimo. Ti casta e soprattutto sì. E bidi qui tu che sta fanno questi. Se me senti Salvani, Salvani, Salvani. Perché Babilonia di o le tristi. Guarda c'è combinano, oh. Sta fanno auruga danni e basta. E tende bicchi. Tu spieghi che qualche cosa cangia. Ehi, pare che sempre ole non concessa la povertà. Poveri noi sopra la strada subimo l'avidità. Questi signori che demoto portano sulla mente falsità. Per noi scende casende importare la porta malvagità. Eppure vogliamo cambiare il mondo, questo è sicuro. La donna non è la die puro quando sta solo. E sempre face non c'è bole, non affari loro. Noi niente, dincia loro. Se gasta e soprattutto sì, e mi dico in giù gasta fanno questi. Se ne senti salvani, salvani, salvani. Per c'è Babilonia di ole tristi. Guarda c'è combinano, oh. Non sta fanno auruga danni e basta. E tende bichi cuspetti che qualche cosa cancia. La gente non ci la fa, c'è chi me piange il cuore. Perché stanca e sfruttata di sta situazione. Schiava dello tempo su tasto sistema. O c'è frati mei, questo qua è il problema. Tocca di riprendimo tutto qui giù che ne esce. Ma dimmi cini la mostra, la luce in cialughetto. Me chiamano paccio perché me sta lamento. Ma dimmi come me sento. Diega stai soprattutto sì. E mi dico in gioco sta fanno questi. Se mi senti salvani, salvani, salvani. Per c'è Babilonia io le tristi. Ok, ok, non perdiamo un attimo. Passiamo direttamente a delle artiste salentine davvero forti. Sono Sister Cat in combination with Terron Fabio. This is Un Nuovo Sole. Ciao DJ Warbo. Per chi non l'ha mai conosciuta, che se la segni, perché è una big, big tune. Arriverà un nuovo sole per me. Arriverà un nuovo giorno perché this is girl power. Tempi migliori verranno ad abbracciare il mio sogno. Perché ci credo ancora. Smesso di credere in te, anche se a volte lo ammetto è difficile. Rincorrere il tuo sogno in questo mondo incredibile, dove mille difficoltà intralciano la strada. Io scelgo la mia, anche se è un po' complicata. Vada come vada, pronta per un'altra sfida, anche se in salita. Finché non arriverà un nuovo sole per me. Arriverà un nuovo giorno per me. Sembra perfetto, no. Punto fisso il mio obiettivo. Arco teso pronto al tiro. Non mi arrenderò. Non darò il mio tempo a chi tenta di ostacolarmi. Prenderò da dentro me il meglio per sollevarmi. Che sia oggi o domani, con la forza di un guerriero io raggiungerò i miei piani. Arriverà un nuovo sole per me. Arriverà un nuovo giorno. Luca non uscire da Rone, non perdere mai le speranze. Tieni sempre in giro di e provane tante. Con ogni cosa che facci e te la più intelligente. Quindi te la chiai che apre tutte le porte. Come un cuore mio quando te tegno de fronte. Che mi dai la forza per continuare. Queste mi non bene pure che domina lo male. Come ste parole tempo arriverà un nuovo sole per me. Arriverà un nuovo giorno perché. Ciao. E queste erano Sister Cat in combination with Terron Fabio. Un'altra big tune di Terron Fabio in featuring con un altro artista che davvero in Italia ha fatto la storia con Gramigna Sound e anche con il suo nome d'artista, perché poi naturalmente dopo il suo sound è passato a fare musica. Questo è Brusco insieme a Terron Fabio with Dancehall Saga. Dancehall Saga, Dancehall Saga, Dancehall Don, Dancehall Fada, Brusco, Terron Fabio, Dancehall Pirata, Dancehall Pirata, da Salento a Villada, Luca Biglu, Dancehall Saga, abbiamo aperto una strada, un accendino se conosci questa giunga, yeah. Tra giganti e magia e illusione, tra realtà e finzione, indistruttibili come una pietra, come la pietra della fondazione. Nel 90 era dura se non eri vero, oggi basta la fortuna ma ieri meno. Dal 2000 in prima fila a capo di un impero, oggi reggae tira meno, locale pieno. Dalla lampada a lampa genio di Aladdin, Philip che dite la danza, cervello paladin. Più su del cielo, Shadalin, con Fabio e con Anakin, Anakin. Noi che già da piccoli eravamo abituati a confrontarci con il fuoco dei draghi, prescelti per portare avanti e ereditare la grande sapienza dei maghi, come maestri a forgiare di me con il fuoco. E ora mancano solamente 10 minuti. Con il coraggio dei veri, siamo oggi quello che eravamo ieri, tra giganti ed eroi. Come dicevo, siamo negli ultimi 10 minuti e lo dedichiamo al nostro Salento allora. Questo è Ghetto Eden in featuring con Don Rico Papaleo. This is boom boom. Dimmi come sta. La musica anche buon giorno, come sta? Dimmi come sta. Di la pena sveglio, boom boom. Anche il bello paese, boom boom boom boom. Aiole, Africa, Italy, boom boom. Senegal, Bamali, boom boom. Gli balli di Fappi, boom boom boom boom. Il cuore batte, boom boom. Viva zona caldo, caldo, scimo. Boom boom boom boom boom boom boom. Sentimo di conto, questo è qui, ducate mi mum. Mo c'ha credere, intorno a noi sta magia. Non te c'è nulla. Sta per arrivare Don Rico. Oh sì. Dai sempre armonia. Boom, no bombe, no cicche, no tracche. Come un orologio qua faccio cicche tracche. De mattina, vespere, de notte. Tu malusterio, manna via le cose piacche. Calu cuore forte, de batte. Intra la capo, no pensiero, bueno parte. Intra lu corpo, siete tutto qui, giocallo. Fai con catenite, in giocate, giocate faccio sempre forte. Lu cuore de casa, con la musica in capo. E giro per la città. Io voglio già presciati, de lu paulona, lu profeta, lu convinto palmieri. Ma saluto l'amici di tutti gli quartieri. La sera la dancehall, arreto alla console. Seguito lu ritmo, le meglio vibrazioni. E non bal mi cade voi. Come senti un po' mi cade voi. No no no no no. Boom boom boom. E c'è legna un legno boom. Da qua da ma boom boom. Nel mio body. Nel tuo mom fumo. Neco fumo happy. Yo. Boom boom boom. E c'è legna un legno boom. Rava te non ne ci denso al party. Almeno calè buon e buon sexy. Yo. Come stai quando senti sto boom boom. La mattina per la sveglio. Boom boom. Papaleo, Ludo, Rico e Lighetto. Con ribadimo lo stesso concetto. Entra la vita alla base di tutto. Questo che conta per noi lo rispetto. Beh, questo con gli amici è il mio canto. Come faccio di tanto tempo? I pensieri fiacchio io lento. E dalla capo mi rimane sto bom bom. Music follare, follare, follare, follare. Ma insomma mere, insomma mere, insomma mere, insomma mere. Ok, questo era Boom Boom from Ghetto Eden. Ora passiamo ad un'altra traccia che da quando sono piccolo, ogni volta che la sento davvero mi fa saltare dalla sedia. Questa è Roots Recall, dall'album Sta Attorno dei Sud Sound System. Non c'è niente che ne può fermare. La musica brucia c'è il cuore. Tu tempo può pure passare. Ma giù spirito in di mio umore. Il cuore mi dice falla, il corpo mi dice palla. La capo mi dice dilla, la musica è cosa bella. Quinta lo su brilla, pure lo tempo della vita tua culla, luce della stella. Allora muoi dilla, muoi falla, muoi falla. Tutta la forza che tieni giù dalla. In modo sensitate di tua voce che ti dice che la vita non tocca a me se molla. Non c'è niente che ne può fermare. La musica brucia c'è il cuore. Tu tempo può pure passare. Senti lo terrone. Ma c'è indifferenza. La musica ci pensa. Te ne tira fuori. Dentro all'indifferenza. Scaccia di figlie. La voglia di ribalza. Fiumi per rimane. Tra sta terra alza. Sì. Ma tu le speranze. Ma se mano finite. La musica non mi cucate pure le ferite. La porta d'accesso sulla verità. E mi non faccio dentro la realtà. Se non si casa e tacca. Se avvolge se stringe. Se incontra adesso. Ma se avvinga le cinghie. La cinghia. I gatti lusinga. La vita te cangia. E ci ho la cancia. Se mi tocca lo corre. La porta me diga. La conta. O il becco mi scotta. Lupe quella luce. Cammenta la rotta. Io viaggio continuo. Comunque me portare, basta che mi te la faci e tutti te pesci, lungo non deridi. Basta che mi te la faci e tutti te pesci, insieme agli amici. Eramo seme in la terra, unimo cantato e ed è cresciuto. Tanto tempo mi ho aspettato. amo, punnamo, perce provamo piacere quando me lo mentimo con le facimo. Lo gusto era tanto è lo sentimento di ognuno del nuovo condimento. Cade sempre un servito, a cina seputato, cala preferito perché è proprio saporito. Ciucano non cignato ancora oggi che non ci ha occupato sempre quello pescio con la gioia con la capo non c'è niente che ne può fermare. La musica brucia c'è il cuore, tu tempo può pure passare, ma il tuo spirito inizia del mio amore. Ehi, non c'è niente che ne può fermare, la musica brucia c'è il cuore, tu tempo può pure passare, ma il tuo spirito inizia del mio amore. Basta tutte minti e la faci e tutti i debreci insieme agli amici. Un'altra big tune, velocissimi. Questo è Comunu Mattune, sempre dell'album Sta Attorno su Sound System. Yo, down. Raga Muffin dello Salento. Lento, yeah, brucia cossina. Zigri down. Come hanno mattune, tu ritmo brisce, mi impaccisce, entra e meggisce come lo sulle. La prima mattina quando sei alza scarpa e tutto lucisce, full of death. Yo, down, raga, un fin dello Salento. Brucia cossina, ziggy down. Tu ritmo brisce, mi impaccisce, entra e meggisce come lo sulle. La prima mattina quando sei alza scarpa e tutto lucisce. E tu riesci come stupisce, non mi tradisce perché come quando la capo secondo lo cuore, tu capisce. Se c'è una verce io mi metto sempre canto. Prima c'è lo stile che se sta bueno a solo tempo. Cerco cuccio un argomento. La melodia che tegno anche a puni dai puro lo senso. Sappiate non riesco cuccio niente. Basta la musica con punne e cubannanti. Tanto la lingua scivola a mezzo i denti. Si grida, si grida, senti, senti. Ogni parola la pizza la mitu come hanno mature. Seguendo la linea di melodia per costruzione. Da tenere lo stile tiso di prima intenzione. Questi cacciini a piglia forma una canzone. Parola su parola si attacca. Una retura ora ognuna caporta. La stanza del pensiero così a picca picca. La frase piglia senza, lo stile non scappa. Anzi, mano mano cagnuna se setta la base de sutta se piglia tutta l'influenza caglioni dau. Veloce ma senza fretta che entra la uca con la lingua che toppa sempre a tempo tocca custau. Così calo tutto poi spacca. La una non fa balla che non si sopporta. Capare non disco che mi solo siletta. E invece ce lo dice che faccio liriche apposta. Se c'è una verge io mi metto sempre canto. Prima c'è lo stile che se setta bueno a solo tempo. Poi cerco cuccio un argomento. Dalla melodia che tegno un capo di tempo. Non sappiate non riesco cuccio niente. Faccia la musica con pone e bubananzi. Tanto la lingua scivola mi anzo li denti. Si gridi un dan, si gridi un dan, si gridi un dan. Non tocca mai t'arrendi, non tocca mai copiarti. Non ritirare risultati è perché te qui giocate forza a parti. E poi non puttere guardi, cade via tocca pretendi. Lo massimo che puoi dare, tanto per tanto. Allora tardi, allora punno, capunno e non giacco. Suoni e ritmo che passa metacco. Perché sotto io non tipo che non mi supporto. Io sempre comporto un pensiero più pieto. A tutta la gente che balla e mi sente. Con pensa unita, ne dico sempre. Uccide nella vita, semplicemente. Perché te qui tu lo messo importante. Pull up. Allora concludiamo questa nostra ora e mezza, questo altro giovedì passato insieme con un'altra tune. This is Reggae Calypso from Sud Sound System. Ma prima di farla partire e per poi concludere quella che è la nostra ora e mezza appunto di radio, voglio ringraziare di nuovo tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui e che mi permettono ogni giovedì appunto di trasmettere some vibes from già. This is Reggae Calypso from Sud Sound System. Listen. Hey, ciamo, ciamo, senti, senti, che qui sta la meglio vibrazione per la gente che sta bene. Che la musica, la musica, la musica è la prima. Reggae Calypso, ciamo, ciamo, so che Calypso. Vieni, vieni, pizzica Calypso. Tarantan Calypso, te la dico tona reggae Calypso. Ciamu ciamu soga soga Calypso. Vieni vieni raga Muffin Calypso. Acquai acquai taranta pizzica Calypso. Poi poi poi poi reggae Calypso. Soga Calypso, raga Calypso. Pizzica Calypso, tarantan Calypso. La capo me schizzo, ogni pizzo me pizzo. No pezzo te pazzo. Reggae raga soga taranta pizzica Calypso. A tutti li pizzo me pizzo, no pezzo pazzo. Io te pazzo, poi non riesco sulla version. Caso un tuo sfogadizzo. E quando io lo faccio mi libero di ogni pregiudizio. Verso la gente, verso le cose, verso ogni tipo di musica. Apprezzo qualsiasi cosa che a me faccio capire di più la vita. Che un saggio, che un cocchio, le giuste parole per sta lirica. Con te faccio capire che la musica è pure vera politica. Ma che la politica non può essere mai vera musica. Perché la politica è come una pianta che inizia la causa eratica. Però è pure una piovra come umano, lo cuore ne rosica. Mentre la musica unisce la capo insieme al cuore. Te faccio capire lo vero valore di ogni cosa. Questo calypso, ciao, muso calypso. Vieni, vieni, pizzica calypso. Acquai, acquai, tempo lontano che sempre tornammo. Ballamo, cannonimo, fai cuccio casimo e cuccio calimo. Amamo, ne divertimo, con le emozioni che tutti tenimo. E quando ponamo, ponamo e venimo, toccamo lo cuore di ognuno. Allora tutta la gente bene questo poco balla, questo è diverse. C'è la vita, c'è del chio gusto, quando lo cuore forte del batte. E sicuro finché che senso se la capo sui già riflette. Così che c'hai lasciato che facci sempre le cose giuste. La musica per mia della prima, emozione che la gente avvicina. In questa vita è lasciata più buona, ripeto, la musica per me è della prima, emozione che la scelta vicina, ogni giorno, ogni settimana, in questa vita è lasciata più buona, dona, ricchi in calipso, ciao, ciao, so calipso, vieni, vieni, pizzica calipso, a poi a fai, taranta in calipso, te lo dico, dona, ricchi in calipso, ciao, ciao, so cazzo in calipso, vieni, vieni, raga, muffi in calipso, a poi a fai, taranta, pizzica in calipso. Calipso, narranta in calipso, la capo un mestizzo, ne pizzo, un piezzo de pazzo, reggae ragazzo che narranta pizzica in calipso, a tutti i pizzi che pizzo, tutto senti lo rizzo, mangiate di che io punno come uno pazzo, cagano io lo pazzo, mi libero di ogni pregiudizio, la musica per me è la prima, emozione che la scelta vicina, ogni giorno, ogni settimana, in questa vita è la cosa più buona. La musica per me è della prima, emozione che la gente avvicina. Ogni giorno, ogni settimana, in questa vita se poi lasciata che ora ancora. Reggae in calipso, ciao, ciao, soca in calipso. Vieni, vieni, taranta in calipso. A poi, taranta in calipso. Te la dico, torna reggae in calipso. Ciao, ciao, soca, soca in calipso. Vieni, vieni, raga, moffi in calipso. A poi, taranta, pizzica in calipso. Oh, sì, ne muoio. Ancora voi, grazie a tutti per la partecipazione, per il sostegno che mi danno e ringrazio soprattutto chi mi dà la possibilità ancora una volta di essere qui. Questo era Salento Connection, l'episodio 2. Ora vi saluto, fra un'ora e mezza ci sarà Shardana Reggae Time with Nochesman. Bless up!